Benvenuti, siamo qua con Riccardo Zerbetto per questo secondo episodio di dei Dialoghi sulla Soglia, che è un format che io e Carolina abbiamo provato a lanciare qualche anno fa in questo luogo, prima che scoppiasse poi la pandemia e che ci ha visto costretti ad abbandonare il progetto per un periodo di tempo. Quindi questo è il secondo incontro ufficiale di questi dialoghi. La proposta è quella di intavolare una riflessione sulla coscienza dell'immagine, trasversalmente all'oggi e allo ieri, in un certo senso. Abbiamo con noi, appunto, che organizza con me Carolina Camurati, della Società Psichedelica Italiana, e il nostro ospite è Riccardo Zerbetto, che vi presento brevemente come medico-psichiatra, neurologo e psicoterapeuta, fondatore e co-direttore della Scuola di Psicoterapia Centro Studi Terapia della Gestalt, già presidente dell'Associazione Italiana di Psicologia Umanistica e Transpersonale, dell'European Association for Psychotherapy, della Federazione Italiana delle Associazioni di Psicoterapia e della Federazione Italiana delle Scuole e Istituti della Gestalt. Esperto di tossicodipendenze, è stato consulente del Ministero della Sanità, fondatore del programma Ortos per l'aiuto dei ludopatici. Io aggiungerei che è anche un esperto di grecità, un greco, di religione greca, come ama definirsi, e forse Carolina vuole presentare un po' la Società Psichica Italiana o andiamo... Ok, allora Riccardo forse voleva iniziarci con una poesia, se non sbaglio. Poesia è una parola grossa. Diciamo, anche se sono un tifoso di questa idea della base poetica della mente, prima di scindere il sapere in filosofia, scienza, astronomia, abbiamo Orfeo, questa figura mitica, Enchiklos Paideia, no? Lui dice che abbia inventato lui la scrittura, ma insomma i greci per loro hanno inventato tutto, che non è vero. Però queste discipline erano tutte intrecciate ed erano espresse in poesia. Prendiamo Esiodo, lui scrive la Teogonia ispirato dalle muse. E le muse avevano questo status estremamente elevato, no? Ne parla Walter Otto, questo grande autore della mistica greca, perché erano le uniche che avevano il diritto di stare sempre al cospetto di Zeus. No? Di Zeus si attorniava di queste 7-9 a seconda, che erano la musa della epica, della lirica, del dramma, della musica. Bene, quindi i bambini scrivono poesie, dice Maria Rilke. E da grandi lo fanno i poeti e gli imbecilli. Io non disdegno di essere tra gli imbecilli, ma mi concedo. Ultimamente più che voler scrivere poesie è sempre una cosa, vabbè, ci sono periodi in cui ci piace, ma più che altro utilizzare una modalità meno logico-deduttiva e più evocativa, più condensata, più densa. Quindi oggi mi sono chiesto, mi girava per la mente il tema dell'oltre, no? la soglia. Quindi dico, mi scrivo due appunti, già che c'erano scritti sul telefonino, sono questi. Oltre, andare oltre, di qui e ora, oltre questo luogo, ad esplorare più lontano, dove si aprono nuovi orizzonti, ancora da scoprire, nel timore e nella eccitazione di ciò che ancora non conosciamo, e oltre il tempo di ora, di questo presente, per affondare nella memoria vicina che ci ricorda di ieri o sempre più lontana che ci porta alle radici di chi siamo e siamo stati. Ma anche il tempo che ci attende domani e oltre, fino ai termini della vita stessa come individui, progenie o intera umanità, e oltre questo stato di veglia, di coscienza, dove scivolare nel sogno in mondi più vasti, dove noi stessi siamo anche altri, e permeati da presenze ben oltre i confini della nostra pelle, oltre il limite dei nostri corpi, dei nostri sensi, oltre gli anni che ci ricevemmo in sorte, oltre la natura che limita il desiderio, oltre il consentito dalle leggi che vietano quell'oltre, il cosiddetto bene e il male, che mai sapremo se davvero è tale, se la nostra stessa vita non ci giochiamo nell'esplorarlo. Oltre anche lo stesso oltre, per poi tornare nei conosciuti limiti del qui ed ora, che più non sono quelli da cui partimmo per rischiare la conoscenza dell'oltre. Vabbè, quindi bellissima. Bellissima. Ci ha portato già un pochino di là. Beh, siamo sulla soglia, no? Siamo sulla soglia. E noi, per dare via a questo dialogo, io e Carolina abbiamo preparato qualche domanda, giusto come input, una strutturina, però poi chiunque abbia voglia può, come dire, partecipare a questa conversazione e fare domande e entrare nel discorso. Dunque, la prima domanda che proporrei a Riccardo è questa. L'iniziazione oggi, quella pratica rituale che scandisce il ritmo della vita, la cui forma e contenuto si differenziano da una comunità all'altra, è divenuta un passaggio standardizzato e sterile, volto al beneficio della catena di produzione capitalista. La comunità è inglobata dal sistema e smembrata attraverso le sue sovrastrutture. Ogni individuo che la costituisce in potenza finisce per alienarsi dal sistema di produzione e quindi per spersonalizzarsi in quanto parte di un corpo perduto. L'essere umano è privato della sua componente creatrice, insita nel modello comunitario, modellato secondo dei bisogni sociali, consumistici, lontani dalla sua anima e che lo rendono più simile ad un robot piuttosto che ad un essere senziente. La psicoterapia, individuale o di gruppo, come tutte quelle pratiche in grado di rivelare i frammenti perduti di sé, in questo contesto si può vedere come un luogo protetto, una sorta di potenziale catalizzatore iniziatico e personalizzabile, ove l'individuo è valorizzato nella sua unicità e accompagnato a ricomporre quei frammenti sparsi nella sua biografia. Individuarsi, quindi, divenire ciò che si è, direbbe Nietzsche, può essere, Riccardo, il presupposto per un ritorno alla comunità, alla collettività, e riportare questa soglia come un'esperienza della quotidianità dell'essere umano, questa iniziazione anche in altri luoghi oltre quello dello studio dello psicoterapeuta. Beh, tu focalizzi un punto che evoca una aporia, come si dice in filosofia, una contraddizione in termini. E cioè, quanto più noi percorriamo un percorso di individuazione, quindi quanto più siamo noi stessi nella nostra unicità, irripetibile, tanto più, tu dici, siamo comunità. Sembra una cosa. Sì. È molto misterioso questo, no? Nel senso che i regimi totalitari, per essere, no, inquadrare le persone secondo un progetto. Non dimentichiamoci che tutti si ispirano alle leggi di Platone. Anche lì un paradosso incredibile, no? Perché questo pensiero che nasce da Socrate, ascolta il daimon, no? La tua voce interiore, la tua unicità, per il quale poi viene condannata a morte, no? Perché non si adatta ai codici sociali, no? E in qualche modo porta poi Platone a sviluppare un'idea assolutizzata, no, di una società ideale. Solo chi è che la pensa così ideale? Dei saggi. No? È quello che viene riprodotto nel Soviet Supremo, no? Ci sono un gruppo di, del Soviet Supremo, no? Un gruppo di oligarchi del pensiero che decidono, no, come deve essere. No? come troviamo in Cina, no? Quanti figli bisogna avere, non più di uno, come bisogna vestirsi. No? Adesso un po' si sta un po' sfrangiando questo totalitarismo, che però anche a livello geopolitico, no? Presenta questa sfida fra questi due sistemi, quelli che sono ordinati secondo delle leggi date dall'alto gerarchicamente, che gli altri devono seguire con le buone o con le cattive. No, vediamo il sistema cinese adesso, no? Tutto viene computerizzato, se tu sgarri qualche cosa, passi col semaforo rosso, già perdi dei punti, per cui, no? O sistemi invece che vanno verso l'individualismo più sfrenato, no? Quindi non è semplice trovare un equilibrio fra questo. Si dice che le socialdemocrazie, no, danno un po' un colpo al cerchio nella botte, social, evocano il socialismo, no, però democrazia, libero pensiero, la democrazia. In realtà c'è qualcosa di veramente misterioso, è come se io realizzo me stesso, seguo il mio daimon, è paradossalmente come se trovassi il mio incastro nell'insieme del noi. Un esempio che mi ha sempre stupito: se noi prendiamo un abete, vabbè, i rami in basso sono più lunghi, poi più corti, più corti, più corti, ma chi glielo dice quanto devono estendersi? Cioè c'è una figura di insieme che governa i sottosistemi. E questo principio elaborato da John Smuts, Holism and Devolution, poco conosciuto e non è stato tradotto perché è quello che introdusse l'apartheid in Sudafrica, quindi non è simpatico, però un grande pensatore, filosofo, scienziato, che sottolinea un principio che sembra ovvio. Se noi prendiamo un feto, prima è una cellula, sono due cellule, poi diventano di più, poi da una cellula viene il polmone, dall'altra il cuore, dall'altra le pupille, no? E piano piano, miracolosamente, ognuna di queste cellule si duplica, no? Fino a costituire un organo, poi un altro, e che hanno tra di loro una proporzione, quindi osservano un disegno complessivo. Altrimenti sono come le cellule tumorali che crescono per cavoli loro, prescindendo da un'economia di insieme. Però qui è la magia, che loro realizzano se stesse. Se io sono una cellula del fegato, sono una cellula del fegato, ma in quanto cellula del fegato faccio parte del corpo nel suo insieme, no? Il corpo mistico, no? Che poi negli Atti degli Apostoli, no? Dice ognuno riceve un dono dallo Spirito, chi di guarire, chi di conoscere le lingue, papà. Però lo Spirito Santo distribuisce i suoi doni. Ognuno, realizzando il dono che ha ricevuto, lo realizza a vantaggio della collettività, non per una realizzazione solo personale. E questo ne parlavo anche con una collega Ilaria, con la quale abbiamo partecipato recentemente a questo seminario sulla cura, no? Cosa significa la cura? E sul tema proprio della visione, qui torniamo al punto, è il titolo di un libricino prezioso sulla cultura di Pelle Rossa, in cui il giovane in età, un rito di passaggio, no, per l'adultità, si estranea dal villaggio, va nel deserto, digiuna, prende il suo cactus, no, ha la sua visione. Questa visione però non è un'illuminazione personale finalizzata a lui stesso, no, lui vede qual è il suo posto, la sua mission, il contributo che lui può dare alla comunità del suo villaggio. Quindi ha questa visione, torna nel villaggio, lo racconta allo sciamano, e lo sciamano gli dà il nome nuovo, tu sarai Aquila Selvaggia. No? È come se la nostra realizzazione nell'individuale, nel particolare, contribuisce però all'insieme. No? È un eco che entra nell'eco, no? Che non è un ego che si scinde o che si contrappone al bene comune. Anzi, io realizzo tanto me stesso come cellula, no? Lo diceva anche Cincinnato, quando ci fu la guerra civile a Roma, patrizi e plebei ebbero, no, come tra no? Plebe e aristocrazia. E lui fece un discorsetto, dice: ma vuoi che sei in piedi o la pupilla degli occhi, siete parte di un corpo, è quella la perfezione, non se sei un pezzo o l'altro. Sì, puoi essere il piede o la pupilla, no? Ma siete entrambi parte di un qualche cosa che dà senso ad entrambi, pari valore, perché è la completezza che dà senso. Ecco, questa visione d'insieme noi l'abbiamo un po' persa. Ci siamo frantumati in un singolarismo che perde la visione d'insieme. Mancano un po' i ponti tra l'ego e l'eco per uscire da sé e trovarsi un po' più simile all'altro, forse. E che poi passa attraverso il concetto di sé, che adesso è tornato di moda, no? Selbst, che Freud non usa mai, perché per Freud la mente è l'io, è l'essere superiore, come l'atomo, cioè il protone, il neutrone, il protone, no? E quindi lui scinde, no? Nella fisica, così Freud lo fa, cioè quello che io dico, uno, no, io non sono uno, siamo in tre, minimo in tre. Poi come nell'atomo si è visto che ci sono i quark, i gluoni, quindi forse siamo anche più di tre, anche psichicamente. Però ecco, siamo una moltitudine che però in qualche modo può essere o scissa, dissociata, in conflitto all'interno, oppure trovare un qualcosa che, come si dice, la definizione della Gestalt è più che la somma delle parti, no? Quindi quando io realizzo il mio sé, vuol dire che questi elementi biologici, psichici e sociali così trovano quella misteriosa coesistenza che in qualche modo mi definisce con la mia unicità. Bene, mi rimanda un po' a questa frase di Jean-Luc Nancy che diceva: nell'intimo dell'uomo abita l'altro, no? Quindi in qualche modo già nella nostra parte più intima siamo già dislocati, in qualche modo l'ego fa spazio a un'alterità, è già abitato da un'alterità, e forse si tratta più di disporsi a questo. Allora ritorniamo un po' a parlare del dispositivo terapeutico, che cerca in qualche modo di muovere anche verso queste prese di consapevolezza. E quindi ti chiedo, Riccardo, facendo una riflessione rispetto al terapeuta che accompagna sulla soglia dell'io, ma poi deve anche sapere, come Virgilio, Enea o anche Orfeo che hai citato, sondare l'insondabile e discendere nell'oscurità dell'anima, in questa sorta di nigredo, questo spazio di elementi grezzi, e in queste tenebre sapersi anche muovere senza mappa, navigando a vista, quindi solo forse con degli orizzonti che si dischiudono. Il terapeuta deve essere capace di sondare i veri stati di coscienza, di stare nell'incertezza, nell'ambiguità dell'inconsapevolezza che ogni persona ancora non individuata vive quando si avvicina alla dimensione dell'oltre, della soglia. Il viaggio dell'anima nelle culture ancestrali era compiuto da uno sciamano, un uomo di sapere, un uomo medicina o donna medicina, colui o colei che collegavano il mondo di sotto e il mondo di sopra attraverso un asse, attraverso un mondo di mezzo. A tal proposito, il terapeuta oggi, in questo mondo fondato sulla dualità, sul principio allopatico e diagnostico, come si può collocare in una linea di continuità rispetto a questi uomini di potere, rispetto un po' all'origine anche di questo mestiere della cura? C'è tanta roba questa. Partirei dalla fine. E citando un collega di Bergamo, Tullio Carrere Comes, che in qualche modo ha identificato in modo abbastanza caratterizzato questa polarità, queste due modalità. La prima lui la chiama una modalità diagnostico-procedurale, no? Di approcciare la medicina, il problema della psicoterapia, e l'altra invece la definisce dialogico-processuale. La prima corrisponde molto alla scienza medica, perché noi siamo al confine, come dice Dilthey, in quanto scienze umane, tra le scienze della natura, la biologia, le Naturwissenschaften, e un altro tipo di scienze che Dilthey chiama le scienze dello spirito, che è un po' vago, no? Basta spirito che come può essere oggetto di scienza. Però se noi prendiamo l'estetica, estetica de gustibus non disputandum est, però se un taglio di fontana, io ho una persona che conosco che ha un fontanino così, che l'ha pagato 70.000 euro, no, non è un taglietto, lo faccio io. Quindi, cioè, non è casuale che un taglio di fontana, no? Quindi è arbitrario, però è quello che io, è al cavallo tra il soggettivo e l'oggettivo, perché non c'è una definizione oggettiva per cui Fontana è un grande, no? Cioè, quali sono i parametri dell'oggettività, però è un soggettivo condiviso a tal punto che si avvicina all'oggettivo. Quindi non è a me mi piace, no? Cioè, no? C'è un consenso, come quella scena di Amadeus, non so se la ricordate, deliziosa, in cui c'è Salieri che fa la sua sonata, però c'è un passaggio che non gli riesce. Passa di lì, Mozart si mette lì, le note sono quelle. Ma dove sta scritto? Quindi non puoi cambiare una nota al chiaro di luna. Cioè, quindi, se non è una cosa arbitraria, quindi vuol dire entra in un ordine. Dove sta scritto quest'ordine? Platone diceva nell'iperuraneo. C'è un luogo dove esiste la linea retta, che in natura non esiste, però lì tutte le linee rette si ispirano a quella linea retta che da qualche parte esiste, perché noi tutti si ispirano a quella linea retta lì, no? Ma questo processo, che è quello diagnostico procedurale, è quello che si adotta in medicina. Io sono stato due anni fa nella foresta amazzonica, anche io a fare la mia esperienza con lo sciamano, sono tornato con delle macchie rosse, e qui mia moglie mi ha detto, prima di entrare in casa vai in dermatologia, no? A vedere che cosa c'era. E infatti erano degli acri, però tra le macchie rosse c'era una nera. E quello gli ha preso, guardato, mi ha messo sul lettino e mi ha tolto il melanoma. Questo melanoma, per fortuna, aveva una profondità inferiore al millimetro e mezzo, quindi era di primo grado. Me l'hanno tolto, adesso faccio i controlli. In qualunque ospedale fossi andato, c'è scritto che di grado 1 va operato chirurgicamente, non devi fare né chemioterapia né radioterapia, così, perché è sufficiente. Ma io mi sono fidato e fatto così. Se invece grado 2, che ha 3 mm, devi vedere gli linfonodi. Quindi, una volta fatta la diagnosi, che è stata consolidata da molti casi, così, la procedura è quella, diagnostico, procedurale. Applicarlo alla psiche, mi si presenta uno borderline, non è così semplice la diagnosi, collegarla a che cosa devo fare, anche perché le psicoterapie sono di tanti tipi diversi, che sono dei mondi come delle religioni diverse, no? Quindi non c'è una procedura collegabile in modo stretto, no? Quindi qual è l'alternativa? È quella che ci ha insegnato Socrate. Socrate dice, boh, io so di non sapere, viene uno da me, nel tete, in questo dialogo commovente, dice, ma viene uno da me e mi dice, io ho questo problema. Poniamo uno, dice, io sono in crisi con il mio rapporto di coppia, con mia moglie, e io che faccio? Gli dico quello che deve fare, c'ho il manualetto che mi dice, devo chiedere, non so chiedere, no? Quindi dice, ma com'è, da quanto tempo, ma sei sicuro che non è una crisi passeggera, no? Chiedo. Man mano che chiedo, come diceva Perse, sbuccio la cipolla. All'esterno sembra di un colore, poi magari cambia colore, no? Quindi sbucciando la cipolla viene fuori che questa crisi magari ha un certo tempo, che sembrava risolto, e piano piano questa persona entra in contatto, lui, con la soluzione, no? Tira fuori la sua verità, per questo la maieutica era l'arte della levatrice. La levatrice si concentra sul bambino della gestante, non sul suo, infatti erano vergini, no? Come Artemide, vergine ma protettrice dei parti, no? Quindi come il celibato di un prete, non ha figli, si occupa dei figli degli altri. Io andavo all'oratorio quando ero ragazzino. Quindi l'arte maieutica cos'è? Non sapere all'inizio, dialogico, però all'interno del dialogo si innesca un processo e uno non sa, sa da dove parte ma non sa dove arriva, no? Perché è il processo che a un certo punto orienta la scoperta, no? Quindi tutti, uno psicoterapeuta non ha una mappa definita del percorso, no? Come leggevi anche tu, no? Parte, no? Procede, come diceva Théard de Chardin, per tétonnement, no? Tentoni, no? Come camminare in un bosco di notte, dove si va? Non c'è un'autostrada, no? Si va un po' avanti, aspetta, qui mi sembra di no, forse no, vediamo un attimo, andando da questa, ma che cosa senti? Ah, dici, ma mi sembrava che tu la volta scorsa avessi avuto un sogno, e dici, ah, ho capito, ma proviamo un po', no? Cioè, quindi è un percorso che si fa insieme. Io ho scritto un articolo su il Virgilio Dantesco come figura dello psicoterapeuta. Mi sono divertito ad andare a vedere le sequenze in cui Virgilio interviene, no? In questo Descensus ad Inferos. È stata un'immagine ipnagogica, ne parla Dante. No? Sono quelle immagini che noi abbiamo al confine appunto tra la veglia e il sonno. No? E lui descrive proprio, no? Vede questa, nella selva oscura, questa, la diritta via, ma si sente perso nel bosco, scende, no? Poi vede tre bestiacce, no? Che sono la leonessa, la lupa, la lince, no? Che sono i tre vizi capitali che erano i suoi, di essere orgoglioso, vorace, no? Come la lupa, invidioso, no? E lì si spaventa e sta tornando indietro, se non che scorge lo dolce duca. È commovente il rapporto che Dante ha con Virgilio. È un vero psicoterapeuta, anche se era un'idea introiettata, un'immagine, no? Ma lui aveva un'idealizzazione, cioè il poeta vate, no? Virgilio, no? E scorge Virgilio, allora si fa animo di procedere, e quindi c'è questo percorso, no? Negli inferi. E Virgilio lo sostiene, a volte lo rimprovera, a volte lo istruisce, altre volte gli domanda, no, Virgilio, cioè, è bellissimo, no? Sono delle sequenze che in qualche modo sono una prefigurazione, no? Del percorso che si fa in psicoterapia, no? Entrando nei nostri inferi, che sono le cose che non vogliamo vedere, che vogliamo dimenticare, perché l'inconscio è quello che non vogliamo sapere, no? Come Edipo aveva ammazzato il padre, ma si era dimenticato, no? Poi la madre si è trovata questo, si è sposato, ci ha fatto quattro figli, ma che fosse il figlio poteva avere quell'età, ma insomma non l'ha voluto sapere, quindi nessuno sapeva, come dice Sofocle, quello che non si dice non esiste. Hanno avuto quattro figli, però finché non è venuta la peste tutto andava. Non aveva interesse a rovistare il passato, finché non è arrivata la peste, no? E lì l'oracolo ha detto, non passerà fino a che non verrà fuori che ha ucciso il vecchio re. No? Quindi la verità vi farà liberi. Quindi la ricerca interiore è una ricerca di verità che però può avere un costo. No? Per Edipo l'ho avuto, no? L'ho avuto molto salato. Ilman, tra l'altro, diceva nel mito dell'analisi che una persona, un terapeuta, può arrivare con l'altro fin dove è arrivato lui stesso, no? Però per un principio relazionale diceva anche che può arrivare lo stesso terapeuta fin dove è arrivato l'altro. Quindi a livello proprio analitico, diciamo dialogico-processuale, lo psicologo, lo psicoterapeuta, dici tu, si può collegare in linea di continuità allo sciamano, da quanto ho capito, in quanto, come appunto è l'esempio di Virgilio nella Divina Commedia di Dante, vi è un corrispettivo, un'analogia attraverso quello che è il suo lavoro con quello della discesa ad Infero dell'avance scoperta verso territori non ancora esplorati della psiche della persona e delle persone che abbiamo davanti. Culturalmente, diciamo, però che Virgilio si collocava in un Dante si collocava in una cultura molto diversa dalla nostra, dove vi era ancora, se vogliamo, una connessione, una come dire, una comunicazione fra i mondi, e Dante ci parla proprio di questo, di tre mondi a partire dal nostro mondo, in un certo senso, che sono lo specchio del nostro mondo, lo specchio della nostra interiorità, inferno, purgatorio e paradiso, giusto? Quindi quello che mi chiedo è, oggi, dove manca questa connessione tra i mondi, per me soprattutto manca una connessione con un principio superiore, perché, come dire, sì, inferno e paradiso li viviamo nel qui e ora, sono qua, ok? Dopo la morte di Dio, Nichana, di Nichana memoria, questo è. Ma in un mondo dove, appunto, in una cultura dove tradizionalmente questa connessione è perduta, dove per polarità siamo, come dire, spinti verso un principio completamente materiale, lontano da una spiritualità vera e propria. Com'è possibile, per esempio, nell'esperienza visionaria di uno psicotico, che un tempo magari era vista come, appunto, dandogli un valore, no? Per la comunità e per l'individuo stesso, che in quanto scalfito e smembrato poteva connettersi per poi ritrovarsi e dare qualcosa agli altri, dare qualcosa a se stesso, dare qualcosa in più alla sua cultura. Oggi questa cosa non è possibile. L'individuo psicotico è un individuo frammentato che viene diagnosticato, viene quindi, come dire, soppresso il suo sintomo, la sua visione, la sua esperienza dell'oltre viene bloccata, coercizzata attraverso dei farmaci, attraverso delle gabbie, attraverso degli ospedali, delle istituzioni. Quindi mi chiedo se nella tua esperienza tu hai avuto a che fare con delle persone che hanno avuto questi sintomi così, così gravi, che appunto possono essere visti in maniera così diversa, e se questi sintomi così gravi, come ricordo, per esempio ricordo Assagioli, no? Che è grandissimo psicologo dei nostri tempi, fondatore della psicosintesi, che è la prima corrente transpersonale della storia della psicologia, personalità incredibile, che aveva addirittura dei contatti con Freud all'epoca, inizio Novecento. Lui raccontava, ho visto nel suo documentario, Lo scienziato dello spirito, che vi consiglio, su Amazon Prime Video, questa esperienza con uno psicotico che pensava di essere Dio. E tutti lo affibbiavano come un pazzo, come un folle, cioè questo pensa di essere Dio, sta di fuori. Mentre lui l'ha ascoltato, ha compreso l'importanza per lui di questo valore, di questo simbolo, come dire, trascendente, divino, ed ha compreso attraverso la sua sistematizzazione culturale e psicologica che questo sintomo, questa sua identificazione con un principio divino era reale, ma non era sostenuta da un io abbastanza forte, che quindi veniva completamente come frantumato da questa potenza inconscia. Quindi io mi chiedo, Riccardo, se tu hai avuto nella tua vita un'esperienza con degli psicotici, e se questi psicotici portassero con sé dei valori, effettivamente, portassero con sé delle cose in questo mondo, dall'altrove. E vabbè, la domanda tocca molti aspetti. Il primo, se c'è un nesso tra la tradizione sciamanica e quella della psicoterapia. e questo nesso in parte c'è, cioè in parte no, nel senso che in questo articolo su Virgilio io analizzo gli antecedenti della psicoterapia, cioè mi pongo questo quesito: se la psicoterapia è una cosa importante, è una professione che ha un certo significato per l'uomo, e come mai ha soltanto 100 anni? Mentre il falegname, il farmacista, il prete, no, ha millenni, no? Quindi è solo il frutto di una cultura, di una società industriale, borghese, decadente, o ha degli antecedenti? C'era anche prima, veniva chiamata diversamente. Beh, gli antecedenti appunto sono sciamanesimo, il padre spirituale, le pratiche misteriche, gli stati di trance, l'uso delle sostanze, cioè, quindi passo in rassegna, no, dei percorsi che l'umanità ha esplorato alla ricerca di una esplorazione interiore, non soltanto geografica, nel mondo esterno. Quello dello sciamanesimo in particolare forse è la più suggestiva e interessante. Adesso tornata molto in auge, come sappiamo, il neosciamanesimo, noi importiamo sciamani, no, dal Sud America o dalla Siberia, in genere da queste tradizioni, è come se noi avessimo sete, no, di qualche cosa che la psichiatria moderna non ci dà, e anche la psicoterapia in fondo si sta muovendo molto su un aspetto dialogico, discorsivo, ma che spesso non attinge, no? Un potere evocativo, trasformativo. Bisogna dire che rispetto già al Virgilio, Dante un po' segna il passaggio cruciale, nel senso che lo sciamano funzionava che se io avevo un problema andavo dallo sciamano o dall'oniromante, perché la grande pratica era quella del sogno, e all'inizio succedeva che io avevo un problema e lo sciamano diceva ok, paga intanto, no? Poi torna tra una settimana, era lui che sognava, nell'oniromanzia egizia per esempio, lui andava nel regno infero degli spiriti, degli antenati, degli dèi, degli animali, quindi come il viaggio sciamanico, il magic trip, so se c'è il complesso sciamanico è fatto essenzialmente di questi elementi, no? C'è lo sciamano che fa il viaggio, torna, trova la spiegazione a qualche cosa che a un livello razionale noi non riusciamo a capire, perché c'è la carestia, perché questa donna non partorisce, o perché c'è la peste a Tebe, no? Vanno dall'oracolo. Chi ha rubato la mucca? Quindi vanno dall'oracolo, l'oracolo cosa succede? C'è la Pizia, che era una donna appunto di Delfi, che aspirava dei vapori oppure dei fumi dell'alloro, forse non era soltanto alloro, no? Si inebriava, veniva posseduta dal Dio, quindi era un endorcismo, non un esorcismo, doveva essere posseduta dal Dio e poi farneticava qualche cosa che i sacerdoti interpretavano dando il vaticinio. Noi andremo a Delfi quest'anno, quindi se non siete mai stati è un luogo dove non potete mancare. E, ecco, però era lo sciamano che faceva il viaggio per conto dell'interrogante. È vero che poi invece è l'interrogante che porta il suo sogno, no? E invece nella pratica attuale. Ma nel caso di Virgilio, lui fa il viaggio con Dante, non lo fa da solo per portare la risposta a Dante. È Dante che deve fare il suo percorso accompagnato dallo sciamano. Quindi lo sciamano è l'accompagnatore. È lo psicopompo, come Hermes, che accompagna le anime nel percorso infero. Se voi andate a Tarquinia, trovate noi due daimoni, se andate nelle tombe, così, si vede proprio l'anima accompagnata da due daimoni, no? Che sono specie di angeli un po' terrifici, no? Perché sono demoni, sono una via di mezzo, così, che accompagnano l'anima in questo percorso. Quindi il Descensus ad Inferos è il paradigma, quando Ulisse perde la bussola, nel senso si trova da Circe, i compagni trasformati in porci hanno mangiato i frutti del loto, la stessa Circe, questo è interessante, che narcotizza i compagni, però aiuta Ulisse a risvegliarsi. ma io dice che faccio qui? Prende l'erba molli, una specie di naloxone, dice ma io che dove sono? Cosa faccio? Ma io devo tornare a Itel, no? E come faccio? Non c'era il navigatore a quel tempo, no? Allora lui chiede a Circe, ma aiutami, no? Come faccio? E Circe è una figura enorme, Circe, no? Perché una tradizione dice che Circe abbia anche un figlio, Antigono, ebbe un figlio da Ulisse, no? Quindi ci fu anche una storia, però lo aiuta a tornare a casa, già non lo trattiene per sé, e gli dice se vuoi tornare a casa devi andare prima negli inferi, a Necchia, e la descensus ad inferi, a incontrare Tiresia, il grande indovino, lui ti dirà come tornare. Allora Ulisse dice, ma come faccio ad andare dove sei? Dice, guarda, incontrerai due fiumi, papà devi portare una libagione, devi uccidere un capro dal bello nero, no? E incontrerai Tiresia, ti dirà come. Quindi una soluzione che a un livello razionale non riusciamo a trovare, si può trovare in una dimensione infera, che non è l'inferno, no? Che è il mondo delle anime, no? Che è il motivo per cui si praticava l'incubazione. Aristotele, quando parla del tempo nella sua fisica, dice come coloro che praticano l'incubazione in Sardegna, Aristotele, dormono 5 giorni, 5 notti e al risveglio non ricordano il tempo che è passato. Ma la Sardegna è conosciuta per le sue coste stupende, ma non abbastanza per la cultura nuragica, che è ricchissima. Ci sono le tombe dei giganti, le Domus di Janus, no? Dove Janus erano queste fatte streghe, no? Che probabilmente fungevano da mediatrici col mondo dei morti. Quindi c'era questo mondo infero nel quale appunto accedere per avere ispirazione, contatto con i defunti, no? Che ci davano delle... Quindi in questo modo il percorso però nello sciamanesimo moderno, che è quello che utilizziamo noi, è l'interessato che fa il viaggio, accompagnato dal terapeuta, no? Infatti Socrate dice, non sono io che ti do le risposte, no, io ti faccio le domande, tu devi trovare la risposta dentro di te. Io sono come mia madre, Filarete, che era un'ostetrica, ti aiuto a tirare fuori te stesso, ad autopartorirti, no? A tirare fuori la tua risposta interiore, no? Alle tue domande, no? E in effetti, purtroppo, molti terapeuti seguono ancora un paradigma diagnostico procedurale, applicando uno schema medico alla psicoterapia, non invece uno schema che è quello, che è quello dialogico, no? Maieutico, che è imparare a fare le domande giuste, non a dare le risposte giuste. Però tu hai fatto un altro cenno sulla psicosi. Ecco, interessante che gli sciamani erano dei feriti o delle persone che erano quasi morte, poi avevano familiarità con la morte, no? Quindi erano dei morti ritornati in vita che in quanto tali potevano sostenere e favorire il percorso di accompagnamento nel mondo infero, proprio perché loro erano in qualche modo morti e ritornati, no? Come nel mito di Er, no? Di cui parla Platone, no? Questo guerriero che sembrava morto, dopo una battaglia invece vedono che si muove, invece non è morto del tutto, no? Poi si ritende, dice, ah, ma allora non sei morto, ma allora dove eri in questi 2 giorni che sembravi morto? E dice, ah, racconta, no? Che era andato appunto nel mondo degli inferi, aveva incontrato Ulisse che gli aveva detto se rinasco col cavolo che voglio fare l'eroe. E il mito di Er, no? Della metempsicosi, che noi non compiamo in una vita il nostro percorso, come in Oriente, no? Il karma che si rinasce, e lo ritroviamo anche in Occidente, curiosamente, questa idea che la vita è un percorso che in qualche modo tende verso qualcosa non sappiamo bene che cosa. No? Io sono un cultore dei grandi misteri di Eleusi, no? Dove c'è questa idea di questa via sacra, la Hierodos, dove a un certo punto c'è un'epopea, una visione. Quindi si ripropone questo tema di un mistero che però ha un suo compimento, che per i greci il telos non è solo la fine, ma anche il fine. Cioè verso dove andiamo? E questo dove nella concezione appunto dei misteri, questa visione, no? Di a un certo punto avere questo momento estatico, visionario, in cui uno, come dice, ma ve lo leggo dopo quello che dice Platone sui misteri. Sul tema della follia ho un caso proprio recente, come psichiatra, insomma, è successo, ma questa ultima che sto vedendo mi ha molto colpito, una donna molto intelligente, era redattrice, caporedattrice per Mondadori di una rivista scientifica, no? Che a un certo punto dà di fuori, viene mobbizzata, è una perfezionista, sente che non è più adeguata, è una persona molto intelligente che dà di fuori, no? E fa cure psichiatriche, io la vedo dopo anni in cui non lavora più, è completamente ridotta a un vegetale, e lei mi parla di queste due parti, no? Una è una parte depressa, che si sente inutile, non ha più voglia di niente, non esce di casa, ha paura di tutti, è regredita. Poi ogni tanto viene fuori invece una sua parte che fa, che spende, espande, fa, seduce, insomma, la parte maniacale, no? E non riesce a tenere insieme queste due. Allora io dico, vabbè, gli ho dato due cuscini, no? Lei si chiama, ha due nomi, Alessandra e Alessia, quindi Ale, vabbè, Ale sei due, no? No, o tu, sono due parti di te, no? Allora, ti cuscini, allora, guarda un po' se riesci a contenerle entrambe, invece di essere da una parte, perché quando era da una parte, quando era depressa, diceva quella cretina che spende i soldi, fa l'imbecille, no? La svalda, no? Quando invece dalla parte maniacale dice, ah, che schifo quando sono depressa, quindi ha un conflitto, no, insanabile fra i due, no? Quindi aiutare un po' a tenerle insieme queste due parti, le ho dato un'indicazione. Io seguo un approccio che chiamo gestaltico archetipico, nel senso che gli archetipi, i miti ci hanno dato delle, come dice Hillman, la mitologia era la psicologia del mondo antico, i miti erano dei grandi collettori di senso, come la psicologia e la mitologia del mondo moderno, ma è la stessa materia. Infatti noi da qualche anno facciamo sempre una giornata di studi a Siracusa in concomitanza con le tragedie, no? Quest'anno abbiamo Prometeo, okay, no? E io le ho dato invece un mito, uno dei miti fondanti mesopotamico di Inanna, questa dea della bellezza, dell'amore, dell'agricoltura, che però a un certo punto si sente attratta in dovere di andare a visitare la sorella Infera, Erichsegal. Quindi nel pieno del suo splendore sente di dover immergersi in questo mondo di tenebra. Infatti scende negli inferi, muore. Deve passare sette porte, denudarsi, toccare, diciamo, il massimo della spogliatezza, no? E niente, muore. Potrà riscattarla soltanto Tammuz, il suo amante, no? Che deve però dare la vita a lui, per lei. Poi lui si riscatta perché la sorella dà la vita per lui. Però la cosa interessante è che lei deve appropriarsi della sua parte infera. È quel doppio, no, di cui accennavi anche tu, di cui parla anche Jung, no? Questo tema dell'avatar, del doppio, no? Della sicinzia, no? Dell'ombra, come dice Jung, no? Lui, quantomeno c'è sempre questo aspetto. Come noi ci divertiamo a fare dei seminari a fine estate sulla quantum physics and psychology, no? Perché la dimensione quantistica ha degli strani correlati con la dimensione anche psicologica, no? E il testo di base è il carteggio tra Jung e Pauli, no? Questo giovane Nobel della fisica, questo genio assoluto, pazzo come un cavallo, che andò in analisi da Jung, no? E gli raccontò 1500 sogni che Jung delegò una sua assistente ad ascoltare i suoi sogni, ci faccio ogni tanto. E praticamente la concezione di Jung sull'inconscio collettivo, in gran parte è lui che l'ha presa dalla dimensione quantistica, no? Quindi questa dimensione della fisica, della psiche, no? Trovano delle convergenze affascinanti, no? Che noi insomma, un po' pedestremente cerchiamo di capirci qualcosa, anche se quando si entra nella fisica quantistica insomma, ci si perde un po' se non siamo alla base matematica, ma insomma noi non... E perché dico questo? Per esempio su queste due parti, c'è la materia e l'antimateria, c'è il protone e l'antiprotone, c'è le cariche negative e positive, ma negative non nel senso negativo, non sono, c'è sempre questo bipolo, questa polarità. È incredibile, no? Come una cosa richiama il suo opposto. No? Quindi è come lo yin e lo yang, no? E anche le divinità delle origini. Noi abbiamo organizzato, però come insomma, insieme abbiamo organizzato questo convegno sul vuoto, il vuoto e le sue dimensioni. Quindi cosa c'era prima che il mondo fosse? Caos. E nelle varie tradizioni spesso si evocano queste divinità primordiali, no? Che a volte sono dei mostri marini, a volte sono qualcosa di inquietante, no? Non è come i titani, i giganti che lottano contro Zeus che porta il cosmos, l'ordine, no? Sono delle forze primordiali, oscure, caotiche, no? Quindi questo tema ci accompagna, no? Perché noi possiamo cadere in fasi di disgregazione dell'io, no? Di caoticità, no? Quindi la schizofrenia vuol dire andare in pezzi, no? È come se mancasse quel qualcosa che tiene unite le parti del sé, che effettivamente sotto l'impulso, no? Freud diceva della libido, comunque sono delle passioni dominanti che l'ego non è più in grado di controllare, di tessere, no? E poi quindi si disgregano appunto. No? Però nel caso di questa paziente, ecco, no? Io gli ho detto, ma senti, non sarà anche tu che c'hai la parte splendente e poi invece lei che veramente una donna di una cultura incredibile, ha fatto un patchwork di pezzi di film, prendendo da, non so come ha fatto, i GIF, insomma, no? Insomma, ha messo insieme una specie di storia in cui queste due sorelle interagiscono. No? Questo per dire come la follia può essere anche fonte di creatività, no? Di genio e follia, si dice, no? Poi di follia, come dicevano i greci, ce n'è di tanti tipi, no? C'è una follia povera, una follia ricca, no? Una follia immaginifica, creativa, una follia invece di, no, minimalista, no? Quindi quando parliamo di follia i greci ne distinguivano quattro tipi, quella dionisiaca, iniziatica, quella profetica, no? Come quella di Cassandra, Apollinia, quella poetica, perché anche quella può essere una forma di possessione, no? E quella iniziatica, no? E quella delle muse che è erotica, no? Perché anche quella è una forma di follia. No? Quindi sì, la follia comunque rompe degli schemi. Quindi anche l'assunzione delle sostanze che sono egolitiche, no? Ci fanno crollare un'impalcatura, un'architettura, una costruzione mentale che noi ci creiamo e che però ci ingabbia. Quindi quell'elemento dissolutivo può essere appunto una premessa per una ricostruzione no, che più adatta a un'evoluzione della persona, no? Che deve passare attraverso dei momenti disgregativi per passare da un ordine a un altro. Beh, allora scusate, rimaniamo... se io bevo la prima volta che invece della bottiglietta d'acqua, ma mi ricordo una conferenza che rimase storica, alla quale parlo di 30 anni fa, 40, partecipava Lange e Laborì, e fu uno scontro titanico. Però. E Lange aveva invece della bottiglia dell'acqua una bottiglia di whisky. Io l'ho conosciuto personalmente, in effetti eccedeva da una cosa, per cui dico, no, oggi andiamo... parliamo allora di questa divisione dell'io diviso, no, rimanendo sempre su questo tema del doppio, no? Anche del fatto di poter contenere una parte anche, e anche il suo opposto, e anche dal momento che hai citato i misteri di Eleusi, Leggerei questa citazione tratta da un testo chiamato appunto I misteri di Eleusi, scritto da Albert Hoffman nel 1992, che fa così: la partecipazione ai misteri rappresentava un'esperienza il cui carattere straordinario era da ricercare in una modificazione nell'anima dell'iniziato, piuttosto che in un evento esteriore. Anche se poi hai parlato di Pauli e di Jung, che insomma, nella sincronicità diciamo che questo accadimento ha un carattere di contemporaneità. Comunque, dice Hoffman, ciò traspare dalle testimonianze di celebri iniziati. Evidentemente, nella visione dell'affinità tra la vita e la morte, gli iniziati esperivano la totalità dell'essere e l'eterno fondamento della creazione. Doveva essere stato un incontro con l'indicibile, con il sublime, rappresentabile solo metaforicamente. È sorprendente come l'esperienza eleusina venga sempre descritta in termini antitetici, oscurità e luce, terrore e beatitudine. E quindi, Carlo, ti chiedo se puoi parlarci un attimo di questi misteri, che sappiamo che è un tema, come dire, ad esempio si parla poco dei piccoli misteri, dei grandi misteri, e la loro derivazione dal mito di Demetra e di come anche la società greca in qualche modo fondasse la sua stessa, come dire, la stessa costituzione, la polis, su questi misteri, e quindi anche una sorta di coincidenza tra l'aspetto della cura e anche quello sacerdotale, no? Che è quello che lo sciamano ha. Un po' è sia sacerdote che uomo, donna, medicina, e questa cosa, questa scissione, tu hai detto antecedente dello psicologo, così era forse il teologo, mi viene da dire. E grazie per questa domanda, perché io ho una specie di fissazione, perché da 21 anni, quest'anno sarà 22, se, faccio questa, la Pompè, questo tragitto di 21 km della Hieraodos, la via sacra, che unisce l'Agorà di Atene, da dove partivano i misti, dall'altare dei 12 dei, che adesso è rimasto solo un angolo perché ci passa la metro sopra, ma e che però io vado tutti gli anni a onorare i 12 dei. Perché, e costeggia il mare ed è adesso una stradaccia trafficata, inquinatissima, le raffinerie eccetera, però è sempre la via sacra, la Hieraodos. Io come un cretino la faccio in giro da solo, qualche volta viene qualche altro non si sa perché, però qualche cosa, il mio daimon, non so, la mia fissazione, non so che cosa mi costringe a farmi questa forte. A volte non la faccio 21 km, piglio l'autobus, faccio un pezzo in auto, ma insomma non la ritualizzo. Però il valore simbolico di questa cosa è straordinario, perché è un rito che è durato per più di mille anni, ed era frequentato da schiavi, donne, giovani, no? E anche da imperatori romani, quattro imperatori romani, Antonino Pio, Marco Aurelio, no? E si iniziarono, Cicerone, no? Quindi era una cosa incredibile, in cui c'era un universalismo partecipativo come era rarissimo nell'antichità, no? E in fondo qual era il nucleo? Era una processione che arrivava al Telesterion, questo tempio, in parte ipogeo, che ricordava appunto la morte di Persefone, che veniva in realtà rapita da Ade, ma il dio della morte, rapita dal dio della morte vuol dire che era morta. Però è una verità, non è una verità rivelata come nella nostra religione, no? Credi tu in Dio Padre Onnipotente, eccetera. Era un'allusione poetica, perché il testo di questa storia è riassunto nell'inno omerico appunto a Demetra, che è una meraviglia assoluta, in cui dice appunto che l'universo era governato da tre divinità, era un triunvirato, non era monoteista, no? C'era Zeus che dominava il regno della luce, Poseidone, quello degli abissi, e Ade, quello degli inferi, quindi erano tre fratelli, no? E avvenne che questo dio dell'Ade rapì questa fanciulla, questa bellissima fanciulla. E solo che la madre, Demetra, entrò in un lutto insanabile. No? Lei, essendo Demetra la dea delle messi, praticamente non cresceva più niente, tutto era inaridito, gli animali morivano perché non c'era, no? Non c'era vegetazione. No? Quindi tutto l'universo era praticamente... E quindi anche gli dèi non si nutrivano dei sacrifici degli animali, no? Quindi si era paralizzato tutto. Okay? Vanno da Zeus, dice guarda che qui si mette male la cosa. No? Allora Zeus si consulta un po' con suo fratello Ade, dice guarda qui bisogna fare qualcosa perché... Allora trovano questo escamotage che per alcuni mesi dell'anno Persefone ritorni in vita. È in primavera, tra poco, no? Quando Persefone torna, lascia il suo sposo Infero per tornare da noi, tutto rifiorisce. La primavera è il ritorno di Persefone. Poi però in autunno, all'equinozio di autunno, che non è quello di primavera, il 21 marzo, tra poco, e deve tornare negli inferi, quindi tutto muore di nuovo, no? Lei si... Quindi rievoca un mito agrario, così detto, no? Il ciclo delle stagioni, no? Che la stagione muore e rinasce. Un po' come anche nel mito di Cibeleattis, no? La madre mediterranea, Cibeles, no? Che aveva questo figlio, Attis, no? Che muore, però muore e rinasce, perché la terra è eterna, mentre i frutti della terra nascono e muoiono. Quindi ripete questo tema, no? Di un elemento permanente che è la terra e invece un elemento caduco che fiorisce la sua bellezza, però poi ci rende. Solo che nello spirito greco invece di essere un maschio viene femminilizzato in Persefone, no? Perché i greci erano più maschilisti. Vabbè. Ma qual è la verità di questo mito? Beh, raccontata così è una favoletta, no? Perché che una muoia, rinasca, insomma, così, come favola va bene, no? Però è una verità profonda, no? Che vita e morte sono parte di un unico processo e noi siamo parte di questo processo di morte e rinascita. No? Quindi partecipare a questi misteri, in fondo, vuol dire sì, sintonizzarsi con questo che è il ritorno della vita. Qui non è aspettarsi una promessa di rinascita, di resurrezione, che è una promessa grossa, cioè bisogna aver fede per credere che noi rinasceremo, risusciteremo anche con i nostri corpi, no? Perché Gesù ritorna con il corpo, mangia pane e pesci, no? Dice dove, come sono chi muore in me, meglio rinascere in me, no? Quindi credere che noi rinasceremo i nostri corpi, insomma, ci vuole un atto di fede forte, no? La fede che propone il mito greco è una fede poetica, evocativa, allegorica, simbolica, no? È una fede psicologica, come dice Jung, che però non è meno importante, anzi, perché è un aderire a un qualcosa che non ha bisogno di un atto di fede cieco, no, perché è così, perché la vita è fatta di morte e rinascita, no? Quindi credere che ci sia, che noi siamo partecipi di questo processo, è già qualche cosa che attenua un po' la crudezza del dover morire in qualche modo. Quindi erano dei riti anche giocosi in fondo, no? Ma soprattutto la cosa interessante è che venivano drammatizzato, prima c'erano i legomena, quello che si diceva, erano delle verità che sì, avevano a che fare con la religione olimpica, le idee, però era una religiosità misterica. Per esempio, ci sono delle cose indicibili. Zeus ha avuto 7 spose. Già questo ne ha combinate mica poche. Però, a parte le amanti, ha avuto 7 spose. Una di queste era Demetra. Ora, lo sposo di Demetra però è suo fratello. Quindi già lì è un momento incerto. Tra gli dei erano in pochi, quindi, no? E quindi... E comunque, però si dice anche che Dioniso nasce 3 volte, Trigenetos. Una di queste volte è figlio di Zeus e di Persefone. cioè che è il massimo della sconcezza, no? Aver fecondato la figlia della tua sposa, non è carina, no? Per cui erano verità non dicibili, ma facevano parte di una trasmissione esoterica, non erano, facevano parte della religiosità esoterica, quella che si diceva, no? Quella che si bisbigliava, perché mistero viene dal mio sussurro, no? Erano cose, si dice che... Vabbè, e su questo ci potremmo addensare, ma insomma è tutta una parte che mi intriga molto, perché non è scritta da nessuna parte, no? Bisogna ricostruirla un po' per indizi, no? Comunque prima c'era un indottrinamento su quello che era il contesto, perché come dice Burkhard, un rito presuppone un mito, altrimenti rimane una ritualità gestuale vuota, se non ha un racconto che l'accompagna, no? Se prendiamo il rito eucaristico, e Gesù prese il pane con le sue mani, se ne lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: questo è il mio corpo. Quindi quel rompere il pane viene accompagnato nella notte in cui fu tradito, prese il pane, no? Non è che uno a pranzo spezza il pane e l'eucaristia, no, è un'altra cosa, no? Perché è uno spezzare il pane accompagnato da un racconto che dà a quei gesti un valore, significato, no? Quindi i legomena erano l'accompagnamento al rito che era poi la processione, che arrivava appunto al tempio della Dea Madre, Demeter, Dea Madre, no? Che noi abbiamo veramente svilito, no? L'abbiamo ridotta la Madre Terra a una pura materia da sfruttare, da inquinare, da sfigurare, no? Ma finché noi crediamo di essere più civili di quelli che erano animisti e vedevano nella terra una madre, non è un tema di rispettare le leggi anti-inquinamento, di vederla come un organismo vivente che ci nutre, che va rispettata, amata, amata. Cosa vuol dire per noi amare la terra? È un nonsense, no? Ma se non c'è amore per la terra, non abbiamo scampo, perché prevale poi la voracità del consumismo. Non esiste più un'anima mundi, no? Ma è l'anima celeste, no? Padre eterno, inaccessibile. E qui è materia. Abbiamo scisso il corpo dallo spirito. Non c'è più un'anima, cioè una fonte, non è più abitata da una divinità, come un albero da una madriade, no? Io guardo un albero, quanti metri cubi sono? Lo taglio, lo vendo. Ma tu uccidi un essere vivente che magari ha 5 secoli, no? È un essere vivente col quale devi interagire, no? Abbiamo perso completamente. Io penso che dovremmo recuperare un neoanimismo, rianimare il mondo. Va bene. Poi c'era il dramata, veniva recitato questo fatto che di notte, no? Quindi i misti arrivavano lì alla sera, alla notte, quindi con le fiaccole cercavano Persefone. Dov'è Persefone? Perché il mito omerico racconta di questa dea che impazzisce dal dolore, la cerca dappertutto, non la trova, chiede, l'avete vista, mio figlio? No. Quindi addirittura dice Omero, era talmente addolorata che non si lavava e non mangiava più. E va a servizio del re di questo luogo, Celeo, no? Che gli fanno fare la governante del loro bambino, praticamente. Poi una cosa molto misteriosa, che lei per eternizzarlo doveva mettere il fuoco. Ma lì. E, vabbè, poi descrive quella cosa, invece è bellissima, che lei torna, la figlia, allora si incontrano, no, si vedono, si abbracciano come impazzite dalla gioia, no? Quindi era un rito che rievocava poeticamente, no? Questo, che la morte non è irreversibile, che in fondo siamo parte di un ciclo di... Ma una cosa che viene detta, no, nell'inno omerico, è che per consolarla le danno da bere del vino e lei lo rifiuta, mentre invece poi accetta il Ciceone, il Chicheon, questo questa mistura, e dice letteralmente: e bevendo il Cicerone dette inizio ai sacri misteri. Ora, questa sbobba, questo Cicerone, ci siamo chiesti che cosa contenesse. E c'è questo, di vicino c'è anche te, no? The Road to Eleusis, in cui un farmacologo illuminato, Hoffman, no? Albert Hoffman, quello che ha scoperto l'LSD, un psichiatra, Carl Rucke, il mitologo, e Gordon Weston, che è uno psichiatra, in tre professioni, studiando i vari aspetti della cosa, arrivano alla conclusione che in questo Cicerone c'era una sostanza, l'ergot, che deriva dal questo eritroxilo, no, non è eritroxilo, sì, è una muffa, insomma, un funghetto, sto bene adesso, in questo momento mi spugno, che infesta i campi di grano. La claviceps purpurea, brava. Che era ben conosciuta anche nel Medioevo, perché produceva le epidemie di ergotismo, in cui mangiando il pane fatto da una farina che era stata infestata da questa muffa, da questi munghetti, produceva gangrena ed allucinazioni. Allora gli eumolpidi, i sacerdoti di Eleusi, evidentemente avevano trovato il sistema per scindere la parte idrosolubile da quella invece solubile e usare la parte allucinogena separandola da quella gangrenosa. Questo io e Samorini una volta ci siamo trovati sull'Appennino tosco-emiliano e a caccia di... ci facciamo pari a dispari facendo questa cosa qui, perché non si sa qual era la parte allucinogena quella cosa, no? Quindi pare di perché ma non l'abbiamo rimandato, però insomma va sciolto questo, no? In ogni caso questa sostanza si chiama l'amide dell'acido, non la diacetilamide che ha fatto Hoffman, ma il preparato base è l'amide, che è un po' meno potente, ma è quella. Quindi che importanza ha l'assunzione di un allucinogeno ai fini di quello che era il momento culmine di questo rito, che era l'epopteia? L'epopteia greco vuol dire la visione dall'alto e pieno. E diamo la parola a Platone, che nel Simposio così si esprime. Giunto alla fine della disciplina di amore, e questo è interessante perché questa è Diotima che lo dice a Socrate, questo discorsetto qua, perché Socrate rifiutò di farsi iniziare i misteri, perché Socrate era un razionalista. Si ritiene invece che Platone, discepolo di Socrate, ebbe un viraggio spiritualista dopo essersi prestato all'iniziazione dei grandi misteri, dopo aver fatto l'esperienza mistica dei misteri, perché far improverare Socrate da Diotima, che era questa Etera. Etera era una, come una geisha, dire prostituta non è esatto, no? Perché erano donne che invece di sposarsi, essere chiuse in casa a guardare i figli, a tessere il telaio, erano donne libere che partecipavano anche ai simposi. Aspasia, conosciuta, era la Etera di Pericle, si diceva che tutte le decisioni politiche più importanti Pericle le condivideva con la Spagna, no? Una donna bellissima, molto intelligente, cioè. Quindi era uno status di donna che non era inferiore, era diversa, cioè, no? Questa è Tera di Megara, che è una cittadina, quindi Socrate dice: io so di non sapere, però sulle cose d'amore qualcosa so, perché me l'ha dette di Ottima. Dio umile, lei è una maestra nelle cose d'amore, no? Dice, come lei mai non la deve. Quindi qui Platone, citando Diotima, appunto dice: quando sarei giunto, uffa, ma ce l'avevo sotto gli occhi, ecco, giunto alla fine della disciplina d'amore. E io ho cercato molto, non esiste un testo che raccoglie cosa significa. Personalmente la cosa che mi interessa più di ogni altra in vita, perché ci sono vari indizi nei dialoghi platonici, no? Per ricostruire cosa vuol dire la disciplina delle cose d'amore. Sorgerà in un istante qualcosa di bello, ammirabile nella sua natura, con esso, per se stesso, con se stesso, semplice, eterno. È una frase questa che mi perseguita. Cioè non ci sono parole più essenziali per descrivere un'esperienza estatica. Pare che questa esperienza visionaria fosse favorita non solo dalla sostanza, perché giunta a compimento della disciplina di amore, non è che uno si piglia Chicheone, questo è importante, no? Però è vero anche che a compimento di questo percorso, che era metaforicamente anche questo, no? I misti, dopo la notte che avevano passato cercando per drammatizzando la morte, quindi, no? Entravano nel Telesteria, che ancora adesso sono questi gradoni, ci stavano fino a 3.000 persone, e come dice Aristotele, al culmine della contemplazione dell'epoptea, che avveniva stando seduti nel Tempio, nel Telesterion, in religioso silenzio e con dignità. Dice Aristotele, che anche lui venne iniziato ai misteri, no? Commenta con questa cosa. Passavano la notte in questo tempio, in silenzio. A un certo punto non si sa bene che cosa avvenisse, perché nel frattempo avevano bevuto il Cicerone. Telesterion, si vede nella ricostruzione nel museo di Eleusi, che è un museino splendido, aveva una lanterna in cima, no? Quindi può darsi che dopo la notte veniva tolta una cosa, a un certo punto entrava la luce. Lì ci sono varie ipotesi, perché c'era la pena di morte per chi rivelava misteri. Quindi non si sa quasi niente, se non da coloro che si convertirono al cristianesimo. E allora non si sentirono più legati al mistero, per cui sono... Clemente, Alessandrina in particolare, noi abbiamo degli indizi da quelli che hanno parlato, però non di chi, solo Platone è quello che ha detto di più in questa frase, no? Ma si sospetta che la cosa potesse essere, qualcuno dice una ierogamia, c'era una unione sessuale, qualcuno dice semplicemente che veniva mostrata una spiga. È come un credente va in chiesa, c'è l'ostensorio con la particola, no? Se uno è un credente, che quello è il corpo di Cristo, lui crede che è il corpo, è Gesù, no? Cioè, se uno è un credente, no? Quindi, ma non era tanto quello che c'era da vedere o da fare, ma era il vissuto interiore, no? Ovviamente sotto anche l'aspetto visionario di questa cosa, no? Bene, allora ci vediamo il 4 di settembre ad Eleusi. Va bene, dai, andiamo un po'. Ho tagliato un po', scusatemi, sono andato un po' in lungo. No, apriamo un attimo adesso. Grazie intanto, no. Sì, grazie. Apriamo un po'. E se c'è qualche cosa, qualche domanda, è il momento adesso in cui accoglierle. sì, ecco, qualche domanda libera. Altrimenti passiamo, facciamo questo momento di lettura collettiva e chiedo a Riccardo di cominciare perché il testo prende il nome di Epopteia e forse sì. Tu ce l'hai? Non ti ho visto, infatti. Prendilo, vieni, vieni, prendilo. Okay. Beh, sapete cos'è un haiku? L'haiku è questa forma poetica giapponese fatta di tre versi, fatti di 5 sillabe, in tutto sono 17 sillabe, appunto in tre versi, c'è una produzione infinita, no? Basho è il più famoso di questi, che sono questi come degli, no? dei flash, no? Che in genere stabiliscono un incontro tra un dentro e un fuori, no? Per esempio c'è la nebbia, allora anch'io mi sento un po' nebbioso, in attesa della primavera, che ne so, no? Si crea una consonanza tra uno stato d'animo e qualche cosa. Però ci sono poi quelli filosofici. Il primo che mi fanno leggere. Questi qui li ho scritti. Posso dire? Io ho avuto una fortuna veramente immeritata di avere un grande maestro, Claudio Naranco, che per 35 anni ho seguito pedestremente, e lui è stato uno dei veramente dei primi che ha aperto questo rinascimento psichedelico. Si è andato lui di persona in Amazzonia, no? A contattare gli indios perché come psichiatra e studioso anche di medicina etnografica eccetera, aveva visto una fotografia in cui questi guerrieri assumevano questa sostanza per affrontare la lotta, la caccia, così. No, siccome lui era un timidone, dice, ma chissà che non ci sia qualcosa di buono. No? E quindi fece lui questa spedizione, no? E quindi ha scritto un libro sull'ayahuasca, che adesso va di moda, insomma, sul tempo fu. E quindi lui invitava questi brasiliani, no? Tutti gli anni, io ho avuto la fortuna di fare questo. E ecco, durante una di queste esperienze ho scritto queste cosette, insomma, questa qui dice cercarmi tanto fino a trovare il posto dove sono seduto. Vai. Ubi consistem. Ripetere? Un ologramma ogni singolo istante di ciò che è il tutto. Ologramma vuol dire il tutto nel poco, no? Cioè tutto il nostro patrimonio genetico c'è in ogni cellula. Come si dice, no? Che tutto l'universo c'è in ogni perla di Shiva, no? Quindi il tutto in ogni parte, no? Quindi in ogni istante ci siamo tutti noi, no? Prima di nascere e forse anche dopo. Perché hanno scoperto una cosa, scoperta secondo me sensazionale, che il feto sogna a partire dal terzo mese. Perché mettendo gli elettroencefalogramma, no? Sulla testolina, e il sonno REM ha una sua riconoscibile, no? Che è quello del sogno, no? E quindi si vede che questo esserino che non ha un'esperienza di vita, perché, no? Quindi ha già delle cose, no? Quindi noi nasciamo. Come? Ma così precoce, capito? Quindi quello che Jung chiama l'inconscio collettivo, no? È come se noi fossimo collegati con una cloud, no? Con l'idea del Brahma, la coscienza cosmica, no? Che noi siamo immersi in qualche modo in campi morfogenetici di cui siamo molto misterioso, ma però insomma che un feto sogni. Però c'è una prova. Se un pulcino riesce a uscire dal guscio, e se ci pensiamo bene, non è mica facile, il guscio è duro, col suo beccuccio, lui adotta un comportamento così mirato che riesce a bucarlo. Ma è straordinario. Quindi chi gliel'ha insegnato? Quindi non è vero che noi nasciamo come tabula rasa, nasciamo già con un piccolo patrimonio, no? Di schemi comportamentali che ci permettono di avere uno scopo di sopravvivenza. Lui sa uscire dal suo guscio, perché se non esce quel guscio diventa un sepolcro. E quindi lui, no? Poi la gallina, la mamma chioccia, magari lo aiuta un pochino, no? Però lui è un miracolo. Con i due piedi, tutonale la gual, procedi sempre. Beh, questo è una cosa di Don Juan, forse voi siete giovani, ai miei tempi si leggeva Castaneda, no? I libri di Castaneda, che era questo antropologo finto, ingenuo, no? Che andava a scuola dallo stregone, parola stregone non suona, lì Cicero si chiamavano, che era insomma uno di questi, uno sciamano sostanzialmente, no? Però con una grandissima conoscenza, no? Lui il Nagual cioè lui non c'era il telefonino, quindi quando andava a trovarlo non sapeva dove trovarlo, però doveva intercettarlo in qualche modo, no? Allora magari lo trovava al mercato, che faceva al mercato. No? Allora da una parte, cioè noi dobbiamo stare coi piedi per terra, perché se stai al mercato ti imbrogliano, no? Quindi devi stare ben attenti. No? Però l'altra parte è il tonal, no? Che è seguire alte traiettorie di pensiero. Come diceva Socrate, essere atopos. Dobbiamo ex esistenza, vuol dire dobbiamo esserci, ma anche essere ex. Dobbiamo mantenere una consapevolezza per cui noi siamo soggetto e oggetto del nostro pensiero riflesso. Quindi siamo comunque sdoppiati. Se noi siamo solo soggetti, come un animale che gira, va di là, invece noi siamo animali che continuamente dicono, ma io cosa sto facendo? No? Mi piace o non mi piace? Posso mangiarlo? No, sono a dieta? No. Abbiamo continuamente un pensiero riflesso in cui noi ci giudichiamo, quindi noi siamo anche oggetto della nostra soggettività, quindi siamo ontologicamente sdoppiati, no? Quindi questa dimensione del mentale fa sì che noi siamo quello che facciamo, ma anche abbiamo sempre una dimensione del, no, del che naviga, che pensa, che evoca, che spazia chissà dove, no? Poi col cellulare figurati, spaziamo ancora di più, non siamo mai completamente qui, perché tu sei sempre il coso, chissà dove sei. Però ecco, il punto, se noi siamo troppo di fuori, ci facciamo imbrogliare al mercato, no? Se noi siamo solo lì a fare i conti, così perdiamo invece il tema della poesia, di un'intuizione, di una preghiera, di una no? Non ci stupiamo nel vedere un cielo che si apre, che ne so, no? Una farfalla, un bambino, no? Quindi avere questo registro sempre duplice, no? Tra cui oscillare. Cioè, Pantarei, no? Diceva Eraclito, tutto fluisce, però nel momento in cui io, era la meditazione di Gurdjieff, no? Quello dello stop, fermati in questo istante, no? Tum, no? Tum. In questo preciso istante io prendo coscienza di me, che è un flash, no? Però è un punto che è comunque in un flusso di coscienza, no? Come la pratica meditativa sembra statica, no? Si mette lì, in realtà c'è sempre un flusso di coscienza, no? Cioè, diciamo, nulla si ferma, no? Ecco, questo mi dà uno spunto per leggere un pezzetto sempre di questa cosa di Gordon, che dice scusate, ecco, vorrei concludere con l'invito di Hoffman. Anche oggi si pone lo stesso problema della trasformazione di ciascun individuo, il cambiamento necessario in direzione di una consapevolezza totale, come condizione per il superamento del materialismo e per un nuovo rapporto con la natura che non può essere delegato alla società o allo Stato. Il cambiamento può aver luogo soltanto dentro ciascun essere umano. Sul modello eleusino si potrebbero istituire centri in grado di riunire e rafforzare le molteplici correnti spirituali del nostro tempo che mirano allo stesso traguardo, consistente nel creare i presupposti tramite una trasformazione di coscienza in ogni singolo individuo per un mondo migliore, senza guerre né catastrofi ambientali, per un mondo abitato da uomini più felici. Quindi questo è l'augurio, no, del ritorno dell'Eusi, no, che era caratterizzato anche da questa esperienza visionaria in cui l'ego si dissolve nel senso di partecipazione. Beh, siamo sempre assetati di luce, anche oltre quello del sole, giustamente. Beh, questo l'ho copiato da Neruda, che dice: confesso che ho vissuto, in punto di morte, poterlo dire, eh? Confesso che ho vissuto. Cioè, al di là di aver fatto bene, male, no? Ho vissuto. Ebbene, il mio è aprire gli occhi e vedere le cose come in sé sono. Si può dire che è impossibile, perché comunque facciamo prima tra vedere e guardare, vedere un po' le cose in sé. Zen porta con sé un giudizio nel vedere. E Schauer diceva Goethe, no? Cioè, vedere in sé. Va bene, qualcuno ha sentito una domanda, o se no farei un bel applauso a Riccardo. Grazie per la vostra pazienza. Allora vi aspetto tutti il 4, no, per una cosa seria, per onorare la Madre Terra. Ah, una cosa interessante è che Eleusi quest'anno, dopo che l'hanno rinviato per 2 anni, è capitale della cultura europea. Solo che ho visto il programma, è fatto di danza, teatro, no? Perché Eleusi è anche, c'è una grande raffineria al porto, no? Quindi è un luogo che è conosciuto anche per l'architettura industriale, che sono degli scheletri ormai abbandonati, ciminiere, no? Che cercano di rianimare facendo luoghi di performance, eccetera. Però non ho visto quasi niente che ricorda i misteri. Per cui il mio invito è minimo in 100 a fare la Pompei, vestiti di bianco oppure di quello, cioè a fare questa processione silenziosa, ricordando che se si celebra l'Eleusi, si celebra per quello. Io vengo. Giura. Giuro. Grazie.